trovare il mento. È bastato un istante, si sta di nuovo ridendo. Non ti pare cambiato, sembra quasi che il tempo in questi 5 anni sia passato girando su se stesso, incollando giorni uno sopra l'altro anziché procedendo con la solita freddezza di chi sta distruggendo nel bene o nel male, cancellando eventi, imprigionando, generando sempre più esili ricordi a richiamo dei quali ogni giorno diveniamo più sordi. Ma questa volta è strano, si ride di come eravamo, di ciò che dicevamo, delle poche lire che ogni volta ci dividevamo. So che di ogni momento niente è stato vano, una stretta di mano serviva a cancellare gli sapori che ogni volta ci procuravamo. Come si fa a credere la nostra, questa realtà, ad essere onesti non tornerà nel tempo che va. Sembra solo ieri, ma come si fa ad essere da soli in questa città, ad essere compresi? Come si fa, come si fa? Già, ma come si fa? Ma pure mi sembra solo ieri, eppure qualcosa non mi torna. Ma oh! E dopo tutti i pomeriggi passati a provare, dopo tutte le serate storte da dimenticare, bastava una nuova faccia da ricordare, un nuovo aneddoto da raccontare. Bastava per ricominciare, farci crepare dalle risate delle serate, spesso dalla nebbia soffocate. Una sera come questa sembra una delle tante, fino a quando non si torna a parlare del presente. Cosa stai facendo? Stai producendo? Ne sei contento? Hai fatto nuove cose? Dimmi quante. È terrificante scoprire in realtà quanto sei distante dalle persone con cui fino a ieri un tutt'uno eri. E tornano alla mente quei problemi seri che ti hanno allontanato, portato su strade diverse, confinato. Capisci che in realtà è un ciclo terminato, ma non importa che sia passato ciò che è stato. Ora lo so, il tempo non l'ha cancellato, no. Non sembra solo ieri.